Ok, in forma piena, poco casino in fondo, raga. Voglio scrivere, lo faccio, ridere, lo faccio, scazzare, scazzo, per il resto tutto a posto, man. Vorrei avere un pretesto, perché voglio dirti il resto, ma questo non fa parte di me, così alle tre. Ancora mi soffoco e non c'è verso, e mi colloco immerso nel mio personal. Mi viene da pensare in quanti fanno lo stesso, tirate sulle mani se vi succede spesso. Vogliono farsela tutta ad un fiato, fare tutto bene subito, ne dubito ed è impreparato. Dipende se bene raccomandato, quindi non vai bene per quanto fai l'educato. Ho detto questo e quest'altro, nessuno mi conosce, non ti entro in testa ma tra le cosce. Sto come quando stomaco e bocca tossisco, occhi rossi lucidi appassisco. Che botta geniale, sei dirty finger, silenzio in sala prego. Roba nuova che pompa, ed è cambiata anche il tuo idolo. Se pensavate di fermarci, siete rimasti illusi. Un altro tiro e ho gli occhi mezzi chiusi. Ancora un altro click, finisco un'altra big click. Rap fresh, no chic, sarò sopra il mic. E se il cervello mi fonde, cavalcando queste onde, illuminando le mie ombre. Tutti pronti, nuova bomba, nuova traccia. Io ti guardo negli occhi mentre ti sbanco in faccia. La tua merda la conosce qualcuno, sembra di fare un discorso con nessuno. E la musica cambia, spalleggiando nella folla, andando sempre a testa alta. E ho provato a perdonare, e ho capito che alla fine un infame resta un infame. Bella Saro il po'. Io dirty finger nella casa, entourage P, scaricate Saro il po'. Yo, bella. Onestamente parlando, divino e crimine. Yeah, fratello dirty finger, grandissimo. A presto da P con nuovi lavori sullo space nuovo. Yo, ragazzi.